Focus Economia. Buona giornata, buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e buon inizio settimana. Iniziamo una nuova settimana di notizie economico-finanziarie. Oggi parleremo di contratti, di salari, ma anche della riapertura delle fabbriche. A settembre ci sono dei segnali che fanno sperare in un autunno di ripresa. L'ultimo dato oggi è quello di Eurostat, secondo il quale lo scorso maggio gli ordini dell'industria hanno registrato una crescita del 3,1%, lo scorso maggio rispetto a maggio. Ovviamente 2008, ma per alcuni lavoratori potrebbe essere un ritorno amaro. Parleremo come sempre anche di borsa, anche di General Motors e delle prospettive per Opel, oltre che di fisco per le imprese. Ma prima di occuparci del tema di apertura, le notizie in breve nelle nostre headlines. E parliamo di petrolio. Apertura in rialzo per il petrolio al mercato di New York. Il greggio sale dello 0,5 a $74,26 al barile. E poi la crisi, aumentano i rischi di una ricaduta in recessione dopo una breve ripresa dell'economia. Lo dice Nouriel Roubini, professore della New York University, divenuto famoso per aver anticipato la crisi finanziaria mondiale. E come dicevamo, notizie positive da Eurostat. Torna il segno più nell'andamento degli ordinativi alle industrie dei 16 paesi di Eurolandia. Secondo i dati resi noti oggi dall'Istituto di Statistica Europeo, lo scorso giugno i nuovi ordini hanno registrato una crescita del 3,1% rispetto a maggio, quando c'era stata una flessione dello 0,5%. Dall'inizio dell'anno, se non si tiene conto del modestissimo più 0,1% di marzo, è la prima volta che questo indice torna positivo in Eurolandia. Quanto all'Italia, da Eurostat, contrariamente a quanto solitamente avvenuto negli ultimi mesi, a giugno non è stata fornita alcuna cifra. Nella casella Italia, delle tabelle in cui sono riportati gli indici relativi a ciascun paese europeo, compare una C che, spiega la leggenda, sta per confidenziale. Nel calendario predisposto dall'Istat è prevista per il 18 settembre la diffusione dei dati su fatturato e ordinativi dell'industria nei mesi di giugno e luglio. E poi l'IRAP. Oggi sul Sole 24 Ore del lunedì leggiamo che, insomma, non ci sono notizie molto positive per le aziende. Un contribuente IRAP su 4 potrebbe rimanere a bocca asciutta nel richiedere rimborso del 10% dell'imposta regionale pagata tra il 2004 e il 2007. Le domande saranno accettate per via telematica fino ad esaurimento fondi e con molta probabilità serviranno tempi da centometrista per agguantare le risorse disponibili. Ne parleremo proprio in questa puntata di Focus Economia. La questione salariale tiene banco quest'oggi, poiché il ministro del welfare Maurizio Sacconi, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato proprio dei salari, dei contratti. Ha detto: i salari vanno differenziati perché non siamo uguali. Il banco di prova autunnale con i primi contratti di metalmeccanici, ambientalisti, chimici e comunicazioni sarà l'attuazione dell'accordo sottoscritto da tutti tranne che dalla CGIL. E poi ancora Sacconi ricorda: abbiamo messo sul piatto la detassazione del salario variabile, ma nella misura in cui le parti la usano, altrimenti dovremo ripensarci. In autunno ci devono dimostrare che l'egualitarismo non rientra dalla finestra dopo essere uscito dalla porta. Ne va della produttività, aggiunto il ministro, e soprattutto del diritto dei lavoratori a una giusta retribuzione. Le parole del ministro Sacconi hanno fatto oggi discutere, hanno dato anche modo di creare un certo dibattito intorno ai salari e ai contratti. La CGIL ha ribattuto con Susanna Camusso, segretaria confederale della CGIL, ha detto: la Costituzione garantisce la libertà contrattuale e sta all'autonomia delle parti decidere come si affrontano e come si risolvono i singoli contratti. Questa la posizione della CGIL, che, lo ricordiamo, non ha firmato lo scorso gennaio la riforma del modello contrattuale siglata dagli altri sindacati e dalle parti sociali. Bonanni, il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, ha commentato anche lui la posizione del Ministero del Lavoro Maurizio Sacconi, lo ha fatto dal meeting di Rimini, ha detto è giusto adattare sempre meglio la detassazione alla contrattazione territoriale aziendale e ha proposto di detassare completamente la parte di salario legata alla contrattazione di secondo livello. Perché non tagliamo le tasse? Del tutto, tasse zero sulla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, e in questo modo Bossi sarà contento perché i dipendenti, essendo in maggioranza in nord, guadagneranno di più, e lo stesso vale anche per i lavoratori del sud. Il ministro quindi Sacconi ha creato un certo dibattito intorno alla sua intervista sui salari, ma Bonanni da Rimini, il segretario della CISL Raffaele Bonanni, ha parlato anche dell'autunno. Un autunno caldo? No, mi aspetto un autunno di grande responsabilità da parte di ciascuno. E sempre sui salari è intervenuto anche l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, sempre a margine del meeting di Rimini, il nostro Corrado Passera, ha detto è giusto che vadano premiate in maniera importante le aziende che investono, fanno produttività, vanno avanti e crescono. Sul nuovo modello contrattuale e la contrattazione di secondo livello, quindi questo è il commento di Corrado Passera. Non si tratta di creare gabbie salariali, si tratta di differenziare le aziende in funzione della loro capacità di crescere, svilupparsi, essere produttiva. Queste le nostre headlines, quindi, ma andiamo al tema di oggi. Il tema di oggi è quello della ripresa d'autunno, alla riapertura delle fabbriche fra pochi giorni, fra poche settimane per alcune. Cosa si devono aspettare i lavoratori italiani? Cosa si devono aspettare le imprese? Quali sono le imprese che a settembre potrebbero non riaprire i cancelli perché senza ordini e senza risorse finanziarie? Il momento è senz'altro delicato, l'economia inizia a evidenziare qualche segnale di ripresa. A preoccupare però sono ora soprattutto le ricadute occupazionali della crisi. Sinora sono stati persi circa 200.000 posti di lavoro secondo i sindacati. I posti a rischio sono almeno altri 400.000. Nei primi sei mesi del 2009 le richieste di cassa integrazione sono più che quadruplicate rispetto all'anno prima, mentre il tasso di disoccupazione è salito dal 6,5% a oltre l'8%. Per il biennio 2009-2010 il governo e le regioni hanno stanziato 8 miliardi di euro per finanziare il ricorso alla cassa integrazione. Dicevamo, ci sono anche dei timidi segnali di ripresa, ad esempio nel settore trasporti. Stando all'ultima indagine Federtrasporto, il calo dei viaggiatori nel settore aereo è rallentato da 15% a gennaio a meno 4% a maggio. A fronte di questi timidi, appunto, segnali di ripresa, ci sono delle preoccupazioni. Abbiamo in collegamento, ospite con noi, il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, al quale diamo il benvenuto. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, ministro, cosa si devono aspettare i lavoratori a settembre? Ci sono delle effettive preoccupazioni? Abbiamo visto che anche presso il suo ministero ci sono delle richieste continue per quanto riguarda appunto la cassa integrazione e le vertenze. Ma è un momento difficile. Da molto tempo siamo nel centro di una crisi internazionale molto lunga che ha colpito tutti. Però bisogna anche dire che ci sono dei segnali timidi di una ripresa che ci auguriamo non faccia presagire una eccessiva lunghezza. E mi spiego. I dati diffusi oggi, quelli di giugno rispetto a maggio, in riferimento all'aumento degli ordinativi delle imprese, che in Eurolandia scatta di 3,1%, è un dato molto importante, ma non è sufficiente a darci ottimismo per l'autunno. Perché? La strada della ripresa è forse incominciata. Ci sono dei segnali, voi ne avete elencati qualcuno ancora durante la trasmissione adesso, ce ne sono diversi, però la strada della ripresa sarà lunga. Ci vorrà parecchio tempo per tornare ai livelli di un anno e mezzo fa, della pre-crisi. È vero però che L'aumento della cassa integrazione che c'è stato in questo ultimo anno è stato più forte nelle prenotazioni di cassa integrazione di quanta poi effettivamente utilizzata, il che significa che nel nostro paese abbiamo retto abbastanza bene. Mi auguro che le imprese che sono riuscite a resistere, nonostante il calo dell'attività produttiva, fino adesso non siano costrette a gettare la spugna proprio in quest'autunno mentre si delinea la ripresa. C'è anche un commento, lei avrà sentito prima, Ministro, che parlavamo dei commenti dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, al meeting di Rimini in generale sui salari. Corrado Passera ha anche detto: un paese che non ha un piano in cui crede, che non ha un piano concreto di lungo termine, rischia quello a cui oggi stiamo assistendo, la mancanza di crescita, e ha chiesto proprio una scintilla, uno shock di qualche tipo per far ripartire la crescita. Tutti devono fare il loro compito, anche le banche. Per ripartire la crescita ci deve essere anche maggiore aiuto nei confronti delle aziende. Mi pare positivo che abbia accettato il sistema bancario l'input governativo della moratoria sui crediti delle imprese. È vero, e il riferimento del discorso di Passera era al tema estivo delle gabbie salariali, che noi dobbiamo collegare una contrattazione al territorio e alla produttività dell'impresa. Se nel nostro paese pensiamo di poter tornare indietro ed agganciare al costo della vita le retribuzioni, noi tonferemo irrimediabilmente in una difficoltà insormontabile. Dobbiamo riuscire a premiare la produttività e così a premiare quelle imprese, come abbiamo fatto con i nostri provvedimenti, che investono gli utili proprio nell'ammodernamento delle proprie aziende. Quindi anche lei, come il ministro Sacconi, ricorda gli sgravi legati alla differenziazione salariale? Veda, quando la CGIL dice che la contrattazione aziendale e collettiva e competenza delle parti dice una verità, ma non può sottacere il ruolo fondamentale che i governi hanno nell'agevolare e nella indirizzare la contrattazione, e la leva fiscale di cui parla il ministro Sacconi è un contributo che il governo dà proprio per dare da un verso una retribuzione più consona al lavoratore, ma dall'altra parte per premiare la produzione che faccia crescere la ricchezza nel nostro paese. Mi pare che questa linea che il governo Berlusconi porta avanti sia largamente condivisa dall'opinione pubblica. Contratti legati alla produttività, legati anche al territorio? Ci sono distretti che hanno una necessità di avere una particolare attenzione. Guardi, a proposito di questo, ed è collegato proprio alla crisi economica che stiamo vivendo, oggi c'è un dato significativo che non ho visto rimarcato. La Brianza, uno dei distretti produttivi che maggiormente esporta nel mondo, nel secondo trimestre ha avuto un aumento di ordini dall'estero del 7,6%. Significa che quei distretti, che sono uno strumento dell'economia concreta e reale italiana molto importante, devono essere un perno per la ripresa dell'economia del nostro paese, e allora anche in quei distretti si può ragionare di trattamenti e di contrattazioni particolari. Niente gabbie salariali, però. Le gabbie salariali sono un fenomeno del passato, non hanno dato esiti positivi, sono state sorpassate e, per dirlo con una battuta, le gabbie non le vuole nessuno. Ministro, sempre Sacconi ha detto che gli ammortizzatori sociali sono più che sufficienti. Non verrà ampliata la platea dei beneficiari anche, per esempio, ai precari, come taluni auspicano? Beh, sui precari il governo, attraverso il ministro Sacconi, ha già fatto un occhio di attenzione nei mesi scorsi. Precario vuol dire precario. Noi abbiamo bisogno, in un paese moderno come l'Italia deve essere, deve crescere, di avere sempre regole certe. Un lavoro precario è un lavoro flessibile, è un lavoro che è provvisorio nell'attesa che venga stabilizzato all'interno di una contrattazione dove tra la domanda e l'offerta c'è richiesta di nuove professionalità. Altrimenti passiamo ad un'economia assistita che, ahimè, nel passato ha portato molte negatività. Quello che si può fare per queste categorie si è fatto. Credo che sia sostanziale e importante dire che il governo Berlusconi ha messo come prima attenzione salvaguardare chi perdeva il lavoro. E dobbiamo dire che i licenziamenti sono stati pochi e che invece il ricorso alla cassa integrazione per garantire nella fase di crisi uno stipendio ai lavoratori ha avuto una grandissima contribuzione da parte dello Stato, 9 miliardi negli ammortizzatori sociali. E il Presidente del Consiglio ha detto: qualora non fossero sufficienti, garantiamo che saranno aumentati. Le preoccupazioni dei lavoratori per l'autunno, lo ricordo, 400 le vertenze aperte sul suo tavolo appunto in queste ore. Queste preoccupazioni potrebbero tradursi in nuovi potenziali casi INSEE? Guardi, le aziende in crisi sono parecchie, ma sono tante anche le aziende che stanno resistendo e sono la grande maggioranza in maniera positiva alla crisi. Noi abbiamo, come lei ricordava, più di 400 casi, 400 tavoli aperti al mio ministero, che sono cresciuti di giorno in giorno e che abbiamo gestito con grande collaborazione fra imprese e sindacati, a cui voglio rendere merito. Non ci sono particolari, ulteriori apprensioni se non quelle che le dicevo, e cioè che quelli che hanno stretto la cinghia fino adesso e che hanno bisogno di aiuto al credito possano avere mancanza di ossigeno proprio nel momento in cui c'è la ripresa. Io credo che nell'economia ci voglia anche l'ottimismo ragionato. Tutti i segnali internazionali di ripresa, penso alla Germania che è il nostro principale cliente, penso alle grandi economie cinese, russa, indiana, penso agli USA, questi segnali mi fanno dire che l'autunno lo riusciremo a reggere anche grazie ai provvedimenti presi, ma in modo particolare soprattutto alla grande maturità che stanno dando gli imprenditori e i sindacati. Pochi giorni fa il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha chiesto al governo nuove misure però contro la crisi, ha detto che le aziende perderanno anche il 50% dei ricavi. Ci sono dei segnali, diceva appunto, di ripresa, ma ci sono anche queste preoccupazioni. Il governo ha fatto molto compatibilmente ad un debito pubblico spaventoso che abbiamo ereditato e che se crescesse ulteriormente porterebbe alla rovina l'intero paese. I provvedimenti presi, moratoria sui crediti delle imprese, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la detassazione degli utili reinvestiti per sostenere gli investimenti, il piano casa che sta partendo già in molte regioni, io credo gli incentivi alle imprese che non licenziano, io credo francamente che molte importanti azioni il governo ha preso per sostenere l'economia e compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica vedremo se sarà necessario qualche ulteriore provvedimento. Ringraziamo il Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola per essere stato con noi e adesso per riassumere brevemente le difficoltà delle diverse regioni, aree, anche distretti italiani, vi facciamo sentire quali sono i nodi nella nostra scheda. Non è un rientro di fine estate facile quello che attende migliaia di lavoratori alle prese con la paura di perdere il posto di lavoro o finire in cassa integrazione. Le nuvole sono diffuse, ma inevitabilmente appaiono più minacciose nelle aree ad alta densità di piccole e medie imprese. In Piemonte sono ad esempio 20.000 i lavoratori in cassa integrazione e con posto di lavoro a rischio e più di 500 le aziende in crisi. Non solo l'indotto dell'auto e meccanica, a soffrire la crisi sono anche l'industria tessile e orafa della regione. In Lombardia, dove da inizio 2009 sono stati già 31.000 i posti svaniti, le difficoltà riguardano ora soprattutto i distretti del tessile di Bergamo, Como e Varese, dove sono a rischio circa 6.000 occupati. In Veneto, gli impieghi traballanti, di cui si ha notizia, sono meno, circa 1.500, legati principalmente alle difficoltà di nomi celebri: la Safilo nel Bellunese, la Ideal Standard di Trichiana, la Carraro di Campodarsego o il cotonificio Marzotto di Portogruaro. La geografia della crisi mostra paesaggi asperi anche scendendo verso il centro Italia. In Emilia-Romagna, il momento no della meccanica rischia di far sparire 20.000 posti distribuiti nelle oltre 600 PMI in crisi. Nelle Marche, l'incognita per 1.700 posti è legata soprattutto ai problemi del settore degli elettrodomestici, come testimonia su tutti la situazione di grave crisi della Merloni di Fabriano. Spostandoci nel Lazio, i timori riguardano soprattutto ciò che ha direttamente o indirettamente a che fare con il trasporto aereo, alle prese con il ridimensionamento di Alitalia e con il difficile momento del settore. Secondo i sindacati, la ricaduta occupazionale potrebbe essere particolarmente dura, lasciando a casa 70.000 lavoratori. Infine, il Sud. In Campania, i tasti dolenti sono lo stabilimento Fiat di Pomigliano, con il suo indotto, la Whirlpool di Casoria e i distretti tessili di Airola e Arzano, che complessivamente mettono a rischio 12.000 occupati. Incognita Fiat anche a Termini Imerese, in Sicilia, dove tra stabilimento e indotto sono in gioco 2.000 posti. In Puglia la crisi si chiama invece soprattutto Ilva di Taranto, l'impianto siderurgico che, come tutta l'industria del settore, è colpito dal forte calo della domanda e dove 6.500 dipendenti sono già in cassa integrazione. A questo si sommano i problemi del distretto dei divani nelle Murge, con un punto interrogativo che riguarda 1.500 posti. E questa è l'Italia delle difficoltà nella nostra scheda riassunta dalla redazione. Abbiamo in collegamento Paolo Duranti, fiscalista ed esperto di piccole e medie imprese, coautore del libro Agevolazioni alle imprese edito da Spirali. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, anche il ministro, poco fa il ministro Scajola, parlava del decreto legge anticrisi recentemente approvato, che può andare incontro alle aziende con alcune misure. Chi riguarda esattamente? Ma come ha accennato lei, giustamente, il decreto anticrisi contiene delle misure tampone, essenzialmente emanate con l'ottica di dare un po' di ossigeno alle PMI. Ricordiamo infatti un dato importantissimo, che le piccole e medie imprese nel tessuto economico produttivo italiano rappresentano l'80% del prodotto interno lordo, quindi sono l'asse portante dell'economia. Il decreto anticrisi, che da pochi giorni approvato definitivamente dal Parlamento, contiene appunto delle misure molto importanti. Facciamo degli esempi. Però questa è la cosiddetta Tremonti Ter, cioè la possibilità per le aziende di detassare parzialmente, parliamo del 50% delle somme stanziate, in investimenti in macchinari e impianti e attrezzature di vario tipo. Per la verità, diciamo, il bacino di utilizzabilità, di utenza dell'investimento non è larghissimo, questo ovviamente per limiti di bilancio. A parte questo, ci sono altre misure, ad esempio è prevista la moratoria dei crediti che le aziende, dei debiti che le aziende hanno verso le banche, moratoria che poi è stata suggellata da un accordo previsto tra ABI e piccole medie imprese il 4 agosto e adesso è operativa. Dottor Duranti, qual è di tutte queste misure previste dal decreto legge quella più efficace secondo lei? Brevemente, perché dobbiamo dare la linea alla pubblicità. Sì, diciamo che tutte le misure contenute non soltanto nel decreto anticrisi, ma non dimentichiamo anche nella legge sviluppo che precedeva qualche giorno al decreto anticrisi, tutte le misure che vanno in un'ottica di favorire le concentrazioni, le fusioni, le alleanze tra piccole e medie imprese grandi reti di imprese, distretti e comunque accordi di filiera vanno nella direzione giusta, quella di rendere maggiormente competitive le nostre aziende che in un panorama internazionale, a causa della eccessiva frammentazione del nostro tessuto economico, attualmente non lo sono. Bentornati a Focus Economia, continuiamo a parlare di imprese come abbiamo fatto finora, ma lo facciamo adesso per aggiornarvi un po' sull'IRAP. Il click day per il bonus ricerca del 6 maggio si era chiuso in 35 secondi, ha detto no a 3 contribuenti su 4 ed è sfociato in un ricorso collettivo. Il prossimo 14 settembre la corsa telematica si replica, in palio c'è il rimborso parziale dell'IRAP 2004-2007, il risultato rischia di essere ancora più fulmineo e amaro per il concorrente. Abbiamo in diretta Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore, che oggi proprio ci ha spiegato tutto sulle pagine del quotidiano. Gianni, la situazione insomma potrebbe essere difficile per molte di queste imprese. Sì, buongiorno a voi. Prima di tutto, buonasera. La situazione è difficile perché mancano i soldi per coprire, diciamo, tutte le richieste che quasi sicuramente arriveranno al 14 settembre, perché abbiamo fatto i calcoli sulla base dell'IRAP versata tra 2004 e 2007, che è l'ambito temporale, diciamo, interessato dal rimborso parziale. La sostanza è che servirebbero circa 4 miliardi, secondo le nostre stime, che sono anche abbastanza prudenziali. Per ora la copertura parla di 1 miliardo, quindi ce n'è per 1 su 4, statisticamente parlando. Chi ha più possibilità in questa corsa di vedere coperta appunto la sua parte di rimborso? Tutto dipende, diciamo, dalla lotteria telematica, la velocità del dito che invierà la richiesta in via telematica, che è l'unica via possibile, diciamo, per fare la richiesta, e saranno soddisfatte, diciamo, in ordine cronologico a seconda della ora, minuto e anche secondo dell'arrivo dell'istanza. Ovviamente se i primi ad arrivare saranno grosse imprese, quell'uno su quattro che dicevamo prima diventerà 1 su 5, 1 su 6, perché le grosse imprese hanno pagato più IRAP negli anni passati e quindi hanno diritto a un rimborso maggiore fino a copertura del miliardo. È probabile quindi che la platea di chi almeno per ora rimarrà a bocca asciutta sarà molto ampia, tanto più che per il 2009 ci sono solo 100 milioni, che sono quindi circa il 2-2,5% delle probabili richieste. Gli altri dovranno aspettare 2010-2011, ma per ora per il triennio c'è solo 1 miliardo, quindi tutti gli altri, che saranno la maggioranza assoluta, dovranno aspettare una eventuale, come dire, nuova alimentazione del fondo per effettuare questo rimborso. Nuova alimentazione che però è resa difficile dal fatto che con la crisi economica e la flessione delle entrate tributarie, ovviamente il bilancio dello Stato di soldi per queste cose ne è ancora meno di prima. Quindi si rischia, quindi, insomma, che non ci sia un contributo. Per 1 su 4 si rischia alla fine che non ci sia proprio un contributo. E con la copertura attuale direi assolutamente di sì, quindi in questo caso la cosa che è ancora diversa dal bonus ricerca che citavate pochi secondi fa è che qui la legge dà diritto a tutti teoricamente, ovviamente, perché è un rimborso, come dire, di una basata, una imposta che pagano tutte le imprese e molti professionisti. Chiunque sia soggetto IRAP ha diritto al rimborso, ma la traduzione pratica di questo diritto è legata a un fondo statale che è molto molto molto parziale, per cui per molti se non ci sarà una nuova alimentazione del fondo il diritto rimane, come dire, una teoria, rimane sulla carta ma non ha implicazioni pratiche. Grazie a Gianni Trovati per questi chiarimenti riguardo all'IRAP, che potete leggere anche sul Sole 24 Ore di oggi. Ci dispiace, la linea era leggermente disturbata, speriamo che tutti voi possiate aver ascoltato bene tutte le spiegazioni del nostro collega. E ora parliamo dei mercati finanziari. Giornata decisamente positiva per quanto riguarda i mercati finanziari, chiusura in rialzo per Piazza Affari, il FTSE All Share ha chiuso più 1,95%, il FTSE MIB più 2,09%, Parigi positiva e così anche Francoforte, entrambe hanno una chiusura intorno a un punto percentuale di guadagno, bene anche Londra. Invece diamo uno sguardo a ciò che sta accadendo oltreoceano, il Nasdaq guadagna lo 0,54%, il Dow Jones lo 0,67%. Per quanto riguarda i titoli del listino milanese, tra i migliori del listino Buzzi Unicem più 5,76% e Unicredit più 5,2%, Italcementi più 4,93%, fra i negativi Tenaris meno 2,24%, meno 2,06% invece per Ansaldo. Ma abbiamo in collegamento con noi, come sempre, una collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, dicevamo una giornata positiva per il listino milanese in particolare, ma un po' per tutte le borse in Europa. Eleonora Micheli, il comparto cemento è andato particolarmente bene, costruzioni? Esatto, infatti le borse europee continuano a festeggiare le parole della scorsa settimana del presidente della Fed Ben Bernanke, secondo le quali appunto la ripresa è ormai imminente e conseguentemente vanno a premiare proprio le azioni delle società più cicliche, in primis quelle delle costruzioni e del cemento, che hanno senza dubbio tirato la volata sin dalle prime battute di questa mattina. Peraltro, per quanto riguarda le azioni in particolare del cemento, Italcementi, Buzzi, Unicem, sono sugli scudi in verità dalla scorsa settimana, dopo che la Svizzera Holcim aveva pubblicato conti migliori delle attese e fornito buone indicazioni per i mesi a venire. In aggiunta, sempre sul settore, anche gli analisti di Nomura hanno espresso parole di incoraggiamento, asserendo che per il comparto del cemento il peggio dovrebbe essere alle spalle. E quindi bene anche in pregilo? Sì, esatto, Impregilo viene vista un po' come, viene associata un po' al settore, perché si tratta comunque di una società che opera nelle costruzioni e quindi beneficia anch'essa della ripresa. Per quanto riguarda le banche, segno positivo vedo per le banche, in particolare su Unicredit ci sono stati degli acquisti, mi sembra a causa anche di una valutazione positiva del titolo da parte di Goldman Sachs. Esatto, oggi si sono un po' riscattate tutte le banche, ma soprattutto, come hai detto tu, Unicredit, che ha allungato il passo proprio nell'ultima ora di contrattazione e accelerando proprio negli ultimi minuti con questo più 5,2%. Senza dubbio comunque a riaccendere i riflettori sulla banca di Piazza Cordusi è stato un report molto favorevole di Goldman Sachs. Gli analisti della banca d'affari consigliano di acquistare i titoli di Unicredit, per i quali hanno inoltre rivisto al rialzo anche la valutazione. Peraltro appunto gli analisti della banca d'affari ritengono che, nonostante il balzo registrato da Unicredit dai minimi di marzo, ricordiamo un balzo attorno al 290%, i titoli di Unicredit continuano a essere sottovalutati rispetto invece ad altri titoli del comparto bancario, non solo italiano ma anche europeo. UBibanca vedo più 2,87%, Intesa San Paolo più 2,71%, Mediobanca più 2,61%, quindi un po' tutto un segno più per quanto riguarda i bancari, come dicevamo. Sì, esatto, si sono risvegliati appunto tutti i bancari, in testa, come abbiamo detto, Unicredit. Bene anche Bulgari, anche qui c'è un giudizio positivo che influisce sull'andamento, sugli acquisti? Sì, infatti Bulgari si è risvegliata sin dalle prime battute di questa mattina, anche in questo caso i titoli poi hanno accelerato proprio sul finale. Diciamo, a riaccendere un po' i riflettori è stato uno studio di Morgan Stanley. Gli analisti continuano a raccomandare cautela sulle azioni, ma hanno rivisto al rialzo il target di prezzo e a prezzi, diciamo, che sebbene a prezzi diciamo inferiori rispetto a quelli a cui si sono attestati sul finale i titoli, cioè a 5,29 euro. Il report comunque ha espresso anche parole di incoraggiamento sul settore del lusso e quindi questo ha un po' diciamo è stato un po' la scusa per riacquistare le azioni. Eleonora Micheli, parlavamo del lusso per quanto riguarda Bulgari, però è un settore in generale che sta ricreando interesse. Sì, infatti, ovviamente si è sempre detto anche nei mesi scorsi che il settore del lusso sarà il settore che probabilmente beneficerà più di altri di un'eventuale ripresa. È un settore che ha sofferto molto, ma che in genere quando arriva la ripresa inizia a correre più velocemente rispetto ad altri comparti. Telecom Italia vedo meno 0,09%, quindi un segno meno. D'altra parte il settore è debole un po' in tutta Europa. Esatto, Telecom anzi diciamo che si è riscattato un po' sul finale perché nel durante della seduta le azioni registrano un andamento ancora più debole. In tutta Europa il comparto, il sottoindice europeo delle telecomunicazioni ha registrato un ribasso dello 0,10%, Telecom a parte sul finale faceva anche peggio nel durante della seduta per il fatto che venerdì scorso le azioni erano andate molto bene, grazie anche a un report diciamo di Credit Suisse che aveva rivisto al rialzo la valutazione delle azioni, pur continuando a raccomandare una certa cautela nei confronti della società. Vedo adesso Luxottica meno 0,46%, dicevamo il lusso in generale è un periodo insomma tutto sommato positivo sul quale almeno ci sono delle speranze di ripresa, però Luxottica oggi è debole. Sì, oggi è andata in controtendenza, d'altra parte spesso in questi giorni ci sono titoli che magari vengono lasciati in ombra a favore di altri. Oggi invece ad esempio si sono risvegliati soprattutto nel pomeriggio tutti i titoli del comparto editoriale, la prima ad essere ben acquistata è stata Mondadori che ha chiuso con un progresso del 3,9%, ma ha trascinato al rialzo un po' tutti i titoli del settore. Vedo debole Ansaldo, meno 2,06, come mai? In questo caso anche i trader non hanno fornito indicazioni particolari, è vero che le Ansaldo erano andate bene nelle scorse settimane. Quindi probabilmente dei movimenti più tecnici. Sì, esatto. Tenaris è la peggiore, meno 2,24%. Anche in questo caso non ci sono motivi particolari, anzi è andata in genere Tenaris si muove insieme al settore dell'energia che oggi non è stato tra i migliori, anche il sottoindice europeo ha registrato un progresso dello 0,22%. Tenaris comunque si è addirittura mossa in controtendenza accusando questo ribasso, ma anche in tal caso si tratta più di movimenti tecnici. Bentornati a Focus Economia, siamo in collegamento con Eleonora Micheli di Radio Corriere Sole 24 Ore che ci sta parlando un po' dei temi di borsa oggi e volevo proprio chiederle di risanamento, il titolo è salito del 14% oggi, l'attenzione quindi degli investitori è su questo titolo in attesa del piano, è così? Esatto, infatti sia i vertici della società che appunto gli advisor, ovvero Bain e Banca Leonardo stanno lavorando alacremente perché appunto il piano dovrebbe essere presentato il 28 agosto in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei conti semestrali. Se riceverà l'ok da parte del Consiglio di Amministrazione e da parte del Presidente Vincenzo Mariconda, a quel punto il piano verrà presentato al giudice civile del Tribunale di Milano, Pierluigi Perrotti. Oggi comunque diciamo che le risanamento sono andate molto bene sull'attesa ovviamente del piano e di eventuali dettagli sul piano. D'altra parte si sono risvegliati un po' tutti i titoli del comparto del real estate, cioè del settore immobiliare. Pirelli Real Estate ha registrato un progresso del 14,17%, Bastoggi del 16,7%, complici i buoni dati sul mercato immobiliare americano che erano stati pubblicati venerdì scorso. È passato di mano il 7% del capitale di risanamento, quindi c'è molto movimento anche. Sì, c'è grande interesse, ovviamente si inizia a scommettere sul salvataggio della società, ma tutto sarà a questo punto nelle mani anche del Tribunale che dovrà vagliare evidentemente il piano di risanamento e comprendere se è possibile il salvataggio della società e se sono credibili le linee guida del piano a cui stanno lavorando appunto proprio in queste ore freneticamente sia gli advisor che i vertici dell'azienda. Tra poco parleremo di Opel e allora per chiudere Eleonora Micheli, c'è stata dell'attenzione anche in borsa, Piazza Affari oggi su Fiat proprio dopo gli sviluppi della vicenda Opel. Sì, certo, c'era molta attenzione. Fiat ha registrato sul finale un progresso dello 0,97%. In verità durante la seduta è riuscita a fare ancora meglio. Questo perché ovviamente nel fine settimana Luca Cordero di Montezemolo, il presidente del gruppo automobilistico, ha detto che l'offerta per Opel rimane sul tavolo anche se non verrà modificata. Grazie Eleonora Micheli, collega dei Radio con il Sole 24 Ore, per questi scenari di borsa. Ci occupiamo, come dicevamo, appunto di Opel, del destino di Opel e di General Motors ovviamente. C'è del nervosismo a Berlino, dove il governo di Angela Merkel si aspettava una decisione per Opel già venerdì durante il CDA di General Motors, decisione che non è arrivata. Berlino non è un mistero, spinge per il gruppo canadese Magna, ma non è da escludere che nella partita possa rientrare anche Fiat. Abbiamo in collegamento l'inviato del Sole 24 Ore negli Stati Uniti, Paolo Madron. Buonasera. Buonasera. Allora, ci sono innanzitutto delle novità rispetto a venerdì. Tu venerdì ipotizzavi un ritorno in campo di Fiat. Ma lo ipotizzava Montezemolo, in realtà. Non io ho sentito Montezemolo venerdì e lui diceva che certo l'offerta è sempre lì e quindi evidentemente se non si arrivava ad un accordo o con Magma o con l'altro gruppo belga RHJ e soprattutto se non si arrivava a un accordo prima del 27, data delle elezioni in Germania, e tutto quanto ripartiva, cioè si ripartiva da zero, e quindi probabilmente anche Fiat forse avrebbe potuto riessere dalla partita. Infatti non è mai uscita in realtà dalla partita Fiat, ma oggi a New York che cosa si dice? General Motors, questa incertezza, allora, che fa innervosire Berlino? Allora, il tema vero è questo: sembra che non tanto General Motors, ma il governo americano, cioè l'azionista principale di General Motors, stia ripensando all'operazione e magari non se ne farà nulla, nel senso che qualcuno dice anche che stanno già riprendendo i colloqui con il governo tedesco per vedere di arrivare a una soluzione. In realtà quello che ha fatto pensare molto è stato un articolo del Wall Street Journal, il quale ha applaudito in maniera spropositata, direi, alla decisione del board di General Motors di prendere tempo, di posporre l'offerta, il che ha fatto pensare che gli americani stiano pensando a qualcos'altro e nelle ipotesi più suggestive anche addirittura quello di tenersi la Opel, perché in questo mese e mezzo il programma di rottamazione, che finisce questa sera alle 8, è stato un successo strepitoso, hanno venduto 500.000 auto, il mercato pare si sta un pochino riprendendo nel clima di ottimismo, diciamo, che c'è qui, insomma, anche l'industria automobilistica dovrebbe avvantaggiarsene, quindi qualcuno ha pensato: ma vuoi vedere che hanno cambiato idea? Quindi che tengano loro la Opel. Sì, però magari in realtà non è assolutamente così, nel senso che sostanzialmente credo che loro vogliano approfondire di più i dossier e poi siano insospettiti dal fatto che il governo della Merkel supporta così chiaramente Magma, che è un gruppo appunto canadese, ma che è alleato con una banca russa, che insomma tutto sommato Cyberbank, che fa riferimento a Gazprom, quindi che non fa, che non piace molto al governo americano, ma no, insomma, principale. In questo clima poi, no, l'idea comunque che qualche cosa che è da insomma quasi un secolo, ma meno di un secolo, mi sembra che da quasi un secolo direi americano, come la Opel, che finisca poi a un gruppo dove c'è anche una componente russa dentro, che ha una partecipazione che è pari a quella del gruppo canadese, mi pare sono tutte e due intorno al 27-27,5 nei futuri assetti possibili, e General Motors, che resterebbe dentro tra l'altro, perché questo se lo dimenticano in molti, General Motors rimane dentro come azionista di minoranza, in questa ipotesi al 35%, quindi una quota non irrilevante. Insomma, credo che vogliano vederci più chiaro. E in tutto questo Fiat, al di là delle, appunto, come ricordavi, affermazioni di Montezemolo, ma anche di Marchionne, di non essere mai usciti in realtà dalla partita, come potrebbe rientrare? Loro potrebbero rientrare perché molto probabilmente il board di General Motors si è reso conto anche del fatto che sia quella di Magma e sia soprattutto quella del fondo di private equity belga RHJ sono delle offerte dove la componente finanziaria è rilevante, è direi predominante. E allora, siccome questo tipo di partite, Chrysler insegna, si giocano invece molto sullo scambio di tecnologie, sul risparmio dei costi, probabilmente qualcuno potrebbe anche ripensare al fatto che l'unica offerta veramente industriale fu a suo tempo quella fatta da Fiat. E credo che questo sia appunto il motivo del contendere, delle eventuali riflessioni più che saranno fatte e comunque del rinvio. Cioè bisogna valutare bene perché probabilmente l'ipotesi Fiat, che oltretutto non piaceva ai tedeschi ma piaceva di più agli americani, potrebbe in questa chiave appunto, no, di scambio di tecnologie, di sinergie, potrebbe riprendere in qualche modo, essere ripresa in considerazione qui a Detroit. Quindi, la pressione insomma, invece di Berlino è dettata anche, ricordavi, da esigenze quasi elettorali della cancelliera tedesca Merkel. C'è un voto il 27 di settembre e ci sono degli operai, dei lavoratori della Opel che insomma premono perché si arrivi a una soluzione. Loro, diciamo, quella degli operai, dei dipendenti, di trovare la soluzione che consenta di, come dire, eliminare il minor numero di posti di lavoro possibile è la priorità. Gli americani criticano molto questa cosa, gli americani sono, insomma, che, dire, non hanno, diciamo, la struttura di welfare europeo, criticano molto questa cosa, non capiscono perché, insomma, quello il criterio del salvataggio dei posti di lavoro debba essere il criterio principale da tenere in considerazione nel chiudere il deal, nel chiudere l'operazione. E però sì, ecco, e poi io credo, ne sono anche convinto, insomma, credo che per i tedeschi fare entrare gli italiani sia comunque una cosa non, diciamo, non consueta, quantomeno non gradita, non graditissima. Insomma, andare in Germania è sempre stato difficile, insomma l'unica grande operazione che fu fatta all'epoca fu l'acquisto nel 92 fu l'acquisto di Hugo Boss da parte di Marzotto, dell'allora gruppo Marzotto, ma poi insomma andare in Germania, Continental, Docet ancora prima, è molto molto difficile. Non è ortodosso. Far entrare poi la Fiat in un terreno, diciamo, di competitor molto forti, in una situazione per il settore non facile, non credo sia l'ipotesi che a loro piace di più. E tra l'altro i lavoratori della Opel minacciano una dimostrazione, leggo ora da un'agenzia di massa, una dimostrazione di massa davanti all'ambasciata americana a Berlino, se la General Motors non prenderà una decisione sul futuro della casa automobilistica tedesca entro la fine di questa settimana. Vedremo come andrà. Grazie a Paolo Madron del Sole 24 Ore, inviato da New York, per questo collegamento sul futuro di Opel e di General Motors. Per quanto ci riguarda, la puntata termina qui. Io ringrazio in redazione Mauro Del Corno, Alessandro Longoni, in regia Valeria Bernardi, al microfono Valentina Furlanetto. Focus Economia termina qui. Buona serata, a domani.